Salva Danaio con Valentina Furlanetto. Buongiorno, bentrovati da Valentina Furlanetto a questa nuova puntata di Salva Danaio. Come avete sentito dall'anticipazione durante il nostro GR, oggi ci occupiamo di case, in particolare cerchiamo di capire come sta andando questo mercato immobiliare anche alla luce della crisi. Come e quanto questa crisi finanziaria internazionale si sta facendo sentire sul settore immobiliare italiano? Chi ci perde? Chi ci guadagna? I prezzi delle case, secondo i dati che abbiamo in mano, stanno scendendo, ma purtroppo anche l'accesso al credito e la disponibilità economica degli italiani sono in calo, in particolare quello di giovani e delle famiglie a basso reddito, con la conseguenza che chi vuole acquistare non riesce magari a farlo e chi vuole vendere deve abbassare i prezzi oppure aspettare. Tra l'altro, come dicevamo, anche durante il GR c'è questa notizia positiva per chi ha un mutuo, chi vuole accendere un mutuo dell'Euribor a tre mesi, questa mattina fissato al 4,153% contro il 4,191 di ieri, che corrisponde al livello più basso da metà giugno 2007. Basterà? Il numero per chiamare, per parlare con noi, con i nostri esperti, per portare la vostra esperienza oppure fare delle domande è l'800 24 0024. Se volete mandarci degli sms 349 238 6666. Prima di tornare a questo tema del mercato immobiliare, diamo uno sguardo alla borsa. Come sentivate anche prima durante il GR, se eravate collegati con noi, è una giornata che mantiene un segno meno, nonostante l'apertura in realtà positiva per le borse europee. Hanno ripiegato a ribasso a metà mattinata, appesantite dal comparto bancario che oggi è in calo in media del 5,5%. Per quanto riguarda Francoforte, meno 1,32%, Parigi in questo momento meno 1,59%, la peggiore in Europa, meno 1,50% a Londra, e ribassi anche sulla piazza di Milano, Mibtel meno 1,39%, Mib30 meno 1,34%, anche Milano non fa eccezione. Sul mercato di Piazza Affari i titoli peggiori sono quelli bancari, UbiBanca meno 5,53%, la peggiore in questo istante, Unicredito Italiano meno 5,15%, e anche Intesa San Paolo va male, meno 4,14%. Sono un po' tutte negative le banche: Banca Monte dei Paschi meno 4,21%, Popolare meno 4,14%. Negativa anche Bulgari, quando UBS ha tagliato il target price della società a 4,5 da 7 euro, confermando il rating. Il titolo migliore del listino è in questo momento in pregilo, meno 2,71%, è andata bene tutta la mattinata anche Finmeccanica, ora leggermente ripiegato e guadagna lo 0,62%. Il titolo beneficia della decisione di Standard & Poor's di rimuovere il credit watch negativo sul rating del gruppo. In rialzo Pirelli, che ha avviato la procedura di mobilità per 200 dipendenti e beneficia anche della buona intonazione del comparto con la francese Michelin. Cosa succede in Europa? IAU in particolare, che è quotata alla borsa di Francoforte, le azioni volano del 16,9%, hanno toccato anche il 18% di rialzo questa mattina dopo l'annuncio dell'amministratore delegato Jerry Yang che lascerà il suo incarico. Gli investitori in questo caso puntano sul fatto che Microsoft potrebbe di nuovo farsi avanti per acquistare l'azienda internet dopo l'uscita di scena dell'amministratore delegato, che invece nei mesi scorsi si era opposto al progetto. E per chiudere, segnaliamo la borsa di Mosca, che questa mattina ha sospeso per un'ora le contrattazioni per eccesso di ribasso. Questa è la nostra borsa, ma torniamo a parlare di case. Case quindi con prezzi leggermente in calo, ma case anche che non si riescono facilmente a vendere in questo periodo. Sentiamo i dettagli nella nostra scheda. Il mercato immobiliare era già in frenata, ma ora la crisi economica rischia di dare il colpo di grazia. Dopo oltre 10 anni di aumenti nei prezzi delle case e crescita delle compravendite, che dalle 600.000 del 1999 hanno superato quota 800.000 nel 2007, era logico attendersi un'inversione di tendenza. E così, nel 2008, i prezzi delle abitazioni sono calati mediamente tra il 7 e il 7,5% rispetto all'anno precedente e le transazioni hanno registrato un drastico meno 14%. Il calo maggiore si è avuto nelle periferie, mentre nei centri storici e per gli immobili di pregio per il momento i prezzi sembrano tenere. In generale, però, si allunga il tempo medio di vendita per gli immobili ad uso abitativo. Possono servire fino a 9 mesi per chiudere una trattativa. Sul fronte della domanda si sono ridotti gli acquisti di alloggi da parte delle fasce più deboli della popolazione, penalizzate anche dalla stretta creditizia seguita alla crisi finanziaria. Il numero di mutui erogati a giovani e a famiglie a basso reddito è diminuito del 20% negli ultimi 12 mesi. Nemmeno le previsioni per il prossimo anno sono rosee. Nel 2009 si attende un ulteriore allungamento dei tempi di vendita e quindi una conseguente diminuzione delle compravendite. A crescere in questo momento è invece la richiesta di abitazioni in affitto. Nel 2008 i contratti di locazione sono aumentati dell'1,7% e nel prossimo anno questa tendenza potrebbe consolidarsi, complice la flessione dei prezzi che per il comparto abitativo ha registrato un meno 3,3%. Questi dati della nostra scheda, ricordiamo il numero per chiamarci 800240024 oppure per scriverci degli sms al 349-238-6666, stanno già arrivando dei messaggi, in realtà tutti sui mutui, sui consigli, su che tipo di mutuo accendere, ma la puntata ne abbiamo fatte molte sui mutui, in realtà oggi è più sul mercato immobiliare, sugli scenari, quando comprare, dove, quando è meglio vendere, qual è la prospettiva per il 2009. Per parlare di tutto questo abbiamo anche ovviamente degli ospiti. Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Franco Erosio, presidente della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, buongiorno a lei. Buongiorno anche a lei e agli ascoltatori. Allora, Erosio, ha sentito la nostra scheda che era basata in parte anche sui vostri dati. È corretta, qualcosa da aggiungere? Assolutamente no, anche la premessa che ha fatto la giornalista credo che non lasci spazio ad alcunché, analisi corretta del momento e del perché si è arrivati a questo punto. Secondo lei a questo punto la crisi delle borse potrebbe giocare a favore del mattone in quanto investimenti? Ma guardi, noi ce l'auguriamo, anche alla fine degli anni 90 il settore immobiliare poi ha ceduto il passo al settore immobiliare, quindi in una condizione differente di mercato, con meno allarmismo, ci auguriamo, perché tutti gli operatori del settore poi di fatto lo sperano, che una volta silenziato un po' tutto ciò che proviene anche dagli organi di comunicazione, dovrebbe con più lentezza riprendere, quindi rivolgendo l'attenzione degli investitori al settore immobiliare. Breglia, presidente di Scenari Immobiliari, questa mattina un quotidiano pubblica una vostra indagine realizzata in collaborazione con questo quotidiano che mette a confronto le rate di un mutuo ottenibile da potenziali acquirenti prendendo in considerazione il loro reddito e i metri quadrati acquistabili. Insomma, in pratica, con reddito di 2.000 euro netti mensili a Milano e Roma si può prendere un appartamento di 32 metri quadri, mentre ad Agrigento si può arrivare ad acquistare un appartamento di circa 100-118 metri quadri. È così? Ci sono davvero queste differenze? Sì, il mercato immobiliare italiano è estremamente diversificato. Noi in questa piccola indagine abbiamo preso riferimento zone periferiche omogenee tra tutti i capoluoghi italiani e le differenze sono enormi. Il costo di un box a Roma equivale a quello di un appartamento di 4 stanze a Ragusa o a Caltanissetta. Questi sono i due estremi del mercato. Poi ci sono realtà molto diversificate all'interno del paese. Uno dei tanti elementi che concorrono anche in questa difficoltà del mercato è la scarsa mobilità della domanda. A differenza di tanti altri paesi europei, non parliamo dell'America dove la mobilità è elevatissima, qui la domanda, la maggior parte della domanda degli italiani si concentra nelle vicinanze della casa della mamma, per cui è un mercato anche troppo rigido. Ad esempio, nella periferia di Milano le case in buone condizioni non costano meno di 4.000 euro al metro quadrato. A Piacenza o a Novara le case nuove costano 2.000-2.200 euro al metro quadrato, quindi decisamente più accessibili. Eppure lo spostamento verso queste due città, tra l'altro entrambe collegate con treni veloci, con reti quasi metropolitane, sono molto modeste rispetto al potenziale del mercato. Noi abbiamo una società e anche una domanda ingessata, per cui ci troviamo paradossalmente con zone interessanti, parliamo anche della periferia di Bari, dei piccoli comuni che sono intorno a Firenze, dell'area romana, quindi non solo di Milano, qui le realtà sono abbastanza simili, in cui ci sono buoni collegamenti, molta offerta di abitazioni nuove o usate a prezzi assolutamente accessibili, eppure la domanda continua ad accentrarsi sulle zone periferiche o semicentrali delle grandi città. Dobbiamo anche, darci una mossa anche per quanto riguarda il mercato, alla ricerca delle occasioni buone. Certo, volevo girare la domanda anche a Rosio, visto che anche lei parla di periferie, i cali maggiori secondo i vostri dati si sono avuti nelle periferie, così mentre i centri storici, mi pare di capire, anche le zone dove ci sono gli immobili di pregio, per il momento in queste zone i prezzi sembrano tenere. Certo, è così, siamo evidentemente di fronte a un mercato di nicchia e quindi un mercato per pochi e i pezzi di prestigio, i prezzi pregiati non sono molti, quindi è un tipo di mercato che a nostro avviso terrà sempre. Il mercato delle periferie è un mercato ingessato, come diceva Breglia, in effetti è così, noi vediamo che è particolarmente difficile spostare l'attenzione del consumatore ancorché acquirente su alcune periferie, malgrado le differenze di prezzo degli immobili a metro quadrato siano particolarmente elevate. E di fatto poi nell'ambito dello stop del mercato immobiliare poi c'è anche un'analisi, e noi lo diciamo nel nostro osservatorio, che è sì omogenea ma poi ha delle zone differenziate tra di loro, cioè nel senso che comunque il fenomeno si sta estendendo come sempre sia in crescita che in decremento in modo abbastanza lento, quindi abbiamo già nei grandi capoluoghi di regione è un fatto acclarato ormai, alcuni capoluoghi di provincia hanno una tendenza comunque al regresso del mercato ma più lenta, di fatto nel giro di pochi mesi avremo una situazione assolutamente omogenea su tutto il territorio nazionale. Ecco, assistiamo, come vedevamo anche dalla scheda, a un doppio fenomeno, ossia una stretta creditizia da una parte e una lieve discesa dei prezzi dall'altra, però insomma un mercato abbastanza bloccato. In tutto questo c'è anche lo spettro dei pignoramenti che si insinua. Prendo dei dati dal Sole 24 Ore di poco tempo fa che riportava dati del Ministero della Giustizia riguardo ai pignoramenti. Nei primi sei mesi del 2008 si è registrata una crescita delle procedure esecutive iscritte quasi del 17% in più rispetto ai pignoramenti attivati nello stesso periodo dell'anno scorso, dato che sale al 40% in più se il confronto è fatto con i numeri del primo semestre 2006. Sono dati che in cifre assolute sono relativamente ancora bassi, quindi insomma non facciamo dell'allarmismo, però sono significativi. Breglia, lei parlava anche di emergenza abitativa per quanto riguarda i giovani, i precari, le famiglie a basso reddito, è così? Sì, noi abbiamo una domanda che si cumula negli anni di giovani che si spostano per motivi di lavoro, di studio, quindi anche di giovani coppie, insomma di immigrati che si spostano anch'essi per motivi di lavoro in giro per l'Italia. Questa domanda abitativa, normale per un'economia ricca, dovrebbe trovare sul mercato sia abitazioni in affitto che abitazioni in acquisto. Questo è un paese in cui purtroppo l'affitto, per tanti motivi, che avrebbe bisogno di una trasmissione soltanto per elencare i principali, è un non mercato. Poche abitazioni in affitto vengono date solo in modo, diciamo così, assolutamente arbitrario, canoni spesso in nero, non vengono fatte le denunce, quindi non è un mercato quello dell'affitto. E allora le persone sono praticamente obbligate, tra virgolette, o a convivere con la famiglia di origine o nei più gruppi familiari se si tratta di immigrati, oppure di spostarsi verso il mercato dell'abitazione e dell'acquisto. Negli ultimi anni abbiamo avuto anche in Italia una nostra esplosione del mercato dei mutui molto lunghi, 20 anni, 30 anni, 40 anni, dovuti al grande boom della rata variabile, quindi erano molto basse e poi oggi purtroppo si vede che sono aumentate, quindi molte famiglie non sono in grado di pagare. Quindi sono i nostri subprime, esattamente come negli Stati Uniti, però non li definiamo in questo modo. Beh, speriamo di non arrivare tra l'altro a quei livelli. Abbiamo due ascoltatori in linea a cui darei subito la parola, che hanno chiamato all'800240024. Mario da Reggio Emilia, buongiorno. Buongiorno. Dica. Niente, io ho il ritorno della mia voce nel telefono, quindi mi è un po' difficile parlare. Comunque, allora, io abito a Reggio Emilia, ho una casa in vendita da circa un anno e mezzo, diciamo una casa abbastanza grande, valore di 160.000 euro. Quanti metri quadrati? Com'è? Quanti metri quadrati, per farci un'idea? È una casa di 90 metri quadri più 80 metri quadri di terrazzo. Quindi è una casa abbastanza grande. Sì. Il discorso è questo, io mi sono fatto un'idea del perché c'è questa difficoltà nel vendere le case. Lei non riesce a vendere questo immobile? No, non riesco a venderlo. Da quanto l'ha messo in vendita? Da un anno e mezzo. Sì. Io mi sono fatto un'idea del perché non si riescono a vendere le case. Anche se può essere abbastanza scontato, però la realtà è questa. In effetti un mutuo di 160.000 euro, che secondo me corrisponde a una casa di almeno una famiglia di 3-4 persone, no? Mediamente come valore nazionale medio di una casa. Sì. Il mutuo è per una banca per un 30 anni è circa 900 euro al mese. Sì. 900-950. Allora, una mutuo totale, una, però una famiglia, com'è? Mutuo totale. Mutuo totale, esatto. Prima cosa, lei ha toccato una cosa molto importante. Quasi tutte le famiglie fanno i mutui totali, cioè finanziano addirittura nel mutuo le spese del notaio e le spese dell'agenzia. Quindi Mario, qual è la sua teoria? Allora, la mia teoria, allora, finanziano tutto perché le famiglie non hanno soldi ovviamente da dare in acconto per poter fare un mutuo più piccolo e abbassare la rata. Poi dopodiché gli stipendi sono rimasti gli stessi, quelli di parecchi anni fa, quindi alla fine una famiglia dove lavorano in due e guadagnano 1.100 euro al mese. Ho capito, non ce la fa, insomma. 900 euro di mutuo, è ovvio che non possono mai farcela. Mario, ma lei cosa ha intenzione di fare? Abbassare il prezzo oppure aspettare? Allora, prima io mi sono acceso una lucetta davanti al mio santo preferito, che prego ogni giorno di poterla vendere. Vabbè, a parte gli scherzi, io devo aspettare, non va posso bene. Abbassare il prezzo perché se no ci ho da rimettere troppi soldi, a parte che devo chiudere il mutuo mio, quindi per chiudere il mio mutuo devo poter vendere a quella cifra. Va bene Mario, la ringrazio. Bentornati da Valentina Furlanetto a Salvadanaio. Oggi parliamo dell'andamento del mercato immobiliare anche alla luce della crisi finanziaria internazionale, anche alla luce delle difficoltà delle famiglie e delle difficoltà di accedere al credito per molte categorie come giovani o famiglie a basso reddito. Ne parliamo con Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari, e con Franco Arosio, presidente della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, e con tutti voi che ci chiamate all'800240024, come Mario che ci ha chiamato prima da Reggio Emilia e parlava del fatto che non riusciva a vendere un immobile. Insomma, a Rosio, finora insomma molti proprietari hanno preferito non vendere anziché ridurre il prezzo, era un po' il ragionamento che faceva Mario. Certo, è così, in effetti Mario ha valutato il tutto si ha valutato anche l'effetto domino che c'è nel momento in cui lui non può scendere, quindi non può vendere a un prezzo inferiore perché deve estinguere il mutuo. Probabilmente dietro c'è anche un altro acquisto che non è comparso, diciamo, dalle parole di Mario. Ma è chiaro che un immobile che sta sul mercato 18 mesi potrebbe anche avere un posizionamento errato del prezzo, ma è ovvio che Mario non lo analizza, perché nel momento in cui lui l'ha acquistato con certi parametri, oggi non è più in grado di regredire. E peraltro ha fatto un'analisi corretta quando ha detto che colui il quale lo dovrà acquistare, se pensa ad un finanziamento pressoché totale, cosa che gli istituti oggi non amano più riproporre, dovrà pensare ad un 90%, diceva, se non ricordo male, quindi circa 140.000 euro che portano per 30 anni a 950 euro mese. Questo ovviamente, se viene applicato ad una famiglia monoreddito, è insostenibile. E infatti torniamo all'indagine di Scenari Immobiliari sul redditi mensili degli italiani e i tipi di acquisti che possono fare. Insomma, con un reddito di 2.000 euro acquistare un appartamento di 30 metri quadri a Roma o Milano è pesante, Breglia, no? Sì, infatti è pesantissimo. Per questo, diciamo, avendo a disposizione solo questa cifra, si è obbligati, sotto un certo aspetto, a rivolgersi ad altre aree, andare fuori città o in centri più piccoli, purtroppo facendo una vita da pendolari fino a che non si hanno risorse per comprare una casa maggiore. Diamo la voce. Sì, prego. Voleva concludere. Una piccola risposta al signore di prima, diciamo, che purtroppo vale per molti all'interno del settore immobiliare. Quando parliamo di mercato, vuol dire che uno vende e un altro compra, e il posizionamento, l'incontro si trova in un prezzo che vada bene a tutti e due. Purtroppo oggi sul mercato c'è molta aspettativa ancora di prezzo elevato, e quindi le trattative, sono le compravendite che si chiudono, sono poche. Cioè, c'è ancora l'illusione che i valori siano quelli di un anno fa. Bisogna pensare ai prezzi dell'anno prossimo. Ma bisogna aspettare per vendere o bisogna adeguarsi ai nuovi prezzi? E se c'è bisogno di vendere, è chiaro che bisogna adeguarsi al mercato, perché il mercato è quello che in alcune zone sono addirittura cresciuti. Cioè non risalirà il mercato immobiliare? La tendenza è sicuramente alla discesa. Ci sono delle zone all'interno delle città, anche delle zone nuove, in cui ci sono quotazioni in leggero aumento, ma sono piccole aree, in generale è un mercato previsto in discesa, perché non c'è nulla all'interno dell'economia occidentale oggi previsto in risalita nel 2009. Il mercato immobiliare, anche se si difende bene, si colloca esattamente come tutti gli altri mercati. Grazie, diamo voce agli ascoltatori che sono in attesa. Luca da Rimini, grazie di aver aspettato, dica. Buongiorno, senta, un'informazione, un vostro parere su un acquisto immobiliare da fare nella provincia di Rimini, quindi a riva al mare. La tipologia del monolocale, che a me interessa quella, ho visto che da gennaio, che sto un po' guardando in giro, i prezzi non stanno calando, c'è una tenuta sostanziale del prezzo. Volevo sapere se questa tipologia continuerà a tenere il prezzo e quindi vale la pena acquistare o continuare ad attendere eventuali cali di prezzo. Parlo di un investimento che va da 100 a 130.000 euro, ecco, in acquisto. Un appartamento come investimento. Allora, Arosio, secondo lei un tipo di investimento in riviera così è destinato a calare o a mantenere prezzo? Ma guardi, la tipologia che sta cercando l'ascoltatore è una tipologia che comunque tiene, è un pezzo, un taglio che difficilmente potrà subire un ulteriore calo. Poi bisogna capire se lui acquista in questo caso come seconda casa oppure se arrivi in una grande città. È pur vero che è sul mare, ma è comunque una città di qualche centinaia di migliaia di abitanti, cioè voglio dire, bisogna capire esattamente bene cosa vuole l'ascoltatore, anche se credo di poter dire che un taglio di quel tipo terrà sempre. Sono soprattutto le metrature e anche il posizionamento evidentemente superiori che soffrono di più. Non credo che se è un anno che sta cercando l'ascoltatore riesca a trovare qualcosa di meglio. Poi dobbiamo anche capirci nella definizione del monolocale. Il monolocale per definizione è strettamente letterale, un unico ambito. In realtà molti potenziali acquirenti chiedono un monolocale, ma in realtà chiedono un bilocale, perché la camera da letto la vogliono comunque separata, quindi bisogna capire esattamente. Comunque i piccoli appartamenti rispetto alle grandi metrature non scendono moltissimo, no? Il prezzo di solito, la tendenza. Le indicazioni che abbiamo noi non sono di un andamento verso il basso così veloce come invece alcuni tagli intermedi stanno avendo. Davide da Vercelli, buongiorno. Buongiorno a lei e grazie per l'ospitalità nella sua trasmissione. Lei cerca o vende? Io cerco. Io sono circa un paio di anni abbondanti che cerco qualcosa a livello di appartamento o di casa indipendente o semidipendente, e penso che nell'arco di questi due anni e mezzo mi sono fatto una mia piccola esperienza. Ho notato che all'inizio qui, dalle mie parti, buona parte, ma presumo anche dalle altre parti dell'Italia, buona parte del mercato immobiliare si è in mano alle agenzie immobiliari, e ho notato che due anni fa abbondanti i prezzi erano abbastanza elevati e quindi era difficoltoso per chi voleva comprare riuscire ad accedere all'acquisto di un immobile. E ho assistito proprio a questo periodo di crisi, e faccio un esempio proprio semplice, è un periodo in cui veniamo contattati io e mia moglie a casa nostra da diverse agenzie che ormai le conosciamo perché sono nate come i funghi all'epoca, che ci propongono lo stesso immobile, che lo stanno passando uno con l'altro perché comunque fanno fatica a venderlo, ma stiamo notando che i prezzi, la richiesta economica delle agenzie non cala, o meglio, lì per lì la richiesta è rimasta sempre immutata. Poi uno dice, beh, ma... Cioè in due anni non ha visto calare i prezzi? Ma in teoria no, poi uno deve andare a contattare con le agenzie come fa sul mercato, perché poi comunque uno ha imparato che ciò che è periferia, le agenzie sono tanto brave a giocare sul discorso delle parole, te lo dipingono come semicentro, o in un contesto storico, poi si va a vedere, c'è la ferrovia che passa a 20 metri da casa. Io penso che comunque c'è, anche per le agenzie, sia un periodo di crisi, perché comunque se si stanno passando un immobile uno con l'altra è difficoltoso. E io spero, ma vado controcorrente e purtroppo me ne rendo conto, che questa crisi purtroppo durerà per noi. Beh, non auguriamocelo, ecco, Davide. Ma io penso di sì, perché io, il mio parere personale, e me ne assumo senza voler mancare di rispetto a nessuno, penso che una parte di questa crisi sia dovuta anche ai prezzi esagerati che c'erano una volta degli immobili. Grazie. E penso che comunque si debba tornare anche a un ridimensionamento della richiesta da parte delle agenzie, e penso che comunque ciò che prima aveva venduto in 3 mesi, adesso i tempi di compravendita si allungano anche a 6 mesi, se no addirittura un anno. Però è troppo facile esaltarsi quando i prezzi andavano, adesso che i prezzi devono scendere, bisogna scendere un po' tutti adesso. Grazie Davide, grazie. In effetti si allunga il tempo medio di vendita. A Rosio, non augurandoci che la crisi continui, perché poi ci sono ripercussioni non soltanto nella discesa dei prezzi degli immobili, ma è per tutto quello che riguarda la nostra vita quotidiana. Le agenzie sono in difficoltà, come diceva l'ascoltatore? Vorrei però, se mi consente, fare un minimo anche di chiarimento, perché il fatto che le agenzie siano in grado di determinare un mercato così vasto sta diventando sempre più una leggenda metropolitana. Io capisco l'ascoltatore che si rivolge alle agenzie, ma i consumatori devono sapere che nel nostro paese solo un terzo dell'intermediato passa attraverso le agenzie, vuol dire che 2/3 lo compiono soggetti non titolati a farlo. Questa è una premessa che mi sembra doverosa. L'agenzia non è in grado di stabilire il prezzo di mercato. L'agente immobiliare parte terza, quindi articolo 1755 del Codice Civile, si mette in mezzo le parti e ovviamente le tutela entrambi. Quindi nel momento in cui un appartamento nel mercato di riferimento ha un prezzo alto, perché esiste una legge semplice di domanda e di offerta. Quindi quando manca prodotto evidentemente il prezzo si alza, quando il prodotto è in eccesso, come in questo momento, il prezzo si abbassa. Questo è un chiarimento, me lo consenta, perché ogni volta sentiamo sempre dire che gli agenti immobiliari sarebbero in grado di determinare il mondo. Non è assolutamente così. È il mercato che lo determina. Dietro l'agente immobiliare c'è qualcuno che conferisce inserisce un incarico, come ben chiaro ed intuibile, e sulla base di ciò l'agente immobiliare, probabilmente in un mercato particolarmente frizzante, non è in grado di comprimere il valore di richiesta, malgrado evidentemente quell'appartamento non lo meriti. Questo è una piccola premessa. Noi peraltro, venendo alla seconda, al secondo diciamo pezzo della sua domanda, no, direi che noi non ce l'auguriamo. Noi crediamo e speriamo che dopo 7, 8, 10 anni, a secondo dei pareri, di corsa sfrenata dei valori immobiliari, si debba arrivare, come spesso accade anche per un atleta, quando uno corre per molto tempo, prima o poi deve cominciare a prendere fiato, si suol dire, e anche il mercato immobiliare ne ha bisogno. Ma ne aveva e ne avrebbe avuto comunque, se non che la crisi internazionale finanziaria, perché deve essere chiaro, la crisi è finanziaria, una crisi di servizi e non di beni, ha colpito duramente tutti i paesi occidentali, compreso il nostro, e peraltro il nostro, considerando un certo modo conservatore di operare delle nostre banche, ci ha protetto leggermente di più. Quindi noi auspichiamo sicuramente una ripresa, probabilmente lo stop sarà un po' più lungo rispetto alla ciclicità del mercato immobiliare a cui tutti eravamo abituati dal dopoguerra in poi, però noi crediamo che comunque debba ritornare. E bentornati a Salvadanaio. Oggi parliamo di case, di mercato immobiliare. Abbiamo visto che nel 2008 i prezzi delle abitazioni sono calati mediamente tra il 7 e il 7,5%, ma anche le transazioni hanno registrato un calo intorno al 14%. Ne stiamo parlando con gli ospiti e anche con gli ascoltatori che ci stanno chiamando. Marco da Milano, buongiorno, lei è in linea da un po', mi scuso per l'attesa, dica. C'è problema, buongiorno a tutti. Niente, io volevo solo porre un esempio che penso rispecchi tanti ragazzi della mia età. Io ho 22 anni, l'anno scorso mi presentai con la mia busta paga, un contratto a tempo indeterminato di 1200 euro, presso alcune banche per, a titolo informativo, chiedere per quanto riguarda un mutuo quanto potenzialmente potevano rilasciarmi. La banca che mi ha offerto di più, si parla di 90.000 euro. Lei è di Milano, quindi con 95.000 euro. Con quei soldi, come penso potete capire, sì, ci compro poco o niente. Ovviamente pensai comunque di fare un minimo di tempo in affitto per cercare un attimino di vedere come potevo gestirmi determinate problematiche prima di magari affrontare una cosa impegnativa come comprare una casa. Ho cercato una casa in affitto e per quanto riguarda comunque locali anche non troppo grandi, cioè indispensabili, una stanza, magari un bagno in comune e una cucina, cioè una classica monolocale, bilocale a Milano, sì, si parla di 600-700 euro al mese e ovviamente diventa comunque sempre una spesa impegnativa. Vai a cercare un coinquilino, cerchi comunque una spalla in un'altra persona per cercare di prendere un appartamento del genere, però ci assicuro che non è facile, non è per niente facile, perché comunque le problematiche che ci sono dietro sono mille. Si parla dal personaggio che puoi trovarti dall'altra parte che magari non è troppo affidabile e comunque sono soldi che tu investi, sono soldi che comunque dai per avere un minimo di appartamento, un minimo di appartamento serio. Io ne ho girati parecchi e tanti ne ho trovati veramente in condizioni. Grazie Marco. Il problema è anche e soprattutto l'accesso al credito, mi pare di capire, Breglia. In effetti, con la proposta che di 90.000 euro di mutuo, vedo da questa indagine che avete fatto, a Milano si può comprare un appartamento di 24 metri quadri, un box, insomma, è un sì, po' difficile per un giovane. Certo, quella è una provocazione, anche perché come l'ascoltatore ha rilevato, ma abbastanza realistica come altri, provocazione. In realtà quei 90.000 euro della banca non bastano per comprare una casa in generale. Secondo elemento, la banca dà 90.000 euro, insomma un'altra cifra, solo se ce n'è almeno altrettanti da parte del possibile compratore. Cioè il vero cambiamento che abbiamo avuto nell'ultimo anno, dall'agosto del 2007 a oggi, è che la percentuale di finanziamento per l'acquisto di una casa, che era arrivato all'80-90%, è sceso drasticamente a livelli degli anni 80. cioè intorno al 50%. Questo automaticamente ha tagliato milioni di persone che potrebbero comprare una casa magari pagando tutta la rata, ma non hanno a disposizione cifre in contanti e oggi diventa sempre più difficile metterle insieme. Tra l'altro un'ultima annotazione brevissima, noi questo piccolissimo sondaggio di 4 ascoltatori ci danno un po' la realtà del mercato, in cui ci sono 3 che cercano e uno che vende. Certo, e che non vuole abbassare, giustamente per le sue motivazioni, il prezzo. A Rosio, a crescere in questo momento è anche la richiesta di abitazioni in affitto, e Marco è la prova di una persona che, non potendo acquistare a questi prezzi, voleva andare in affitto, però con difficoltà anche da questo punto di vista. Stanno scendendo gli affitti, il prezzo degli affitti? Guardi, io credo che il canone di locazione delle case, oltre al momento contingente, chiaramente difficoltà nell'acquisire l'alloggio, quindi si ritorna al mercato della locazione. Qui necessitano degli interventi un pochino più radicali nei comportamenti fiscali dei redditi da locazione per coloro i quali investono in case e poi da dare in locazione. Quindi è un problema che la nostra federazione sta seguendo da tempo insieme a Confedilizia, con altre associazioni di categoria, per evitare appunto che questi redditi finiscano in un cumulo e poi fanno sì che l'investitore non si avvicini all'acquisto di alloggio da porre in locazione. Vengo alla locazione perché è chiaro che la premessa è che per poter locare ci deve essere qualcuno che investe, ovviamente, per porre poi in locazione i beni, visto che il pubblico cosiddetto non ci riesce. A questo punto è chiaro che i canoni dovrebbero scendere. Uso il condizionale perché poi c'è una legge che non tutela il possesso e non la proprietà, insomma tutta una serie di fatti che rendono ancora più difficili e poi si ribaltano sulla giovane coppia oppure sul ragazzo che non trova l'alloggio. Quindi ci sono dei problemi a monte che non sono riferibili al mercato, sono di impostazione di carattere fiscale, finanziario e politica che vanno rimossi. Noi è da tempo che diciamo che comunque per arrivare a togliere questa piaga vergognosa che è il nero rilevato dai canoni di locazione è necessario avere un pochino più di, come le posso dire, di coraggio in un ambito politico. Il ragazzo peraltro ha ragione, in una grande città oggi un canone di locazione medio ma li supera anche 600 euro al mese, che probabilmente rispetto alla capacità di acquisto, nel caso specifico di un salario, non è in linea, non ce la può fare un ragazzo che guadagna 1200 euro al mese. Però vorrei sottolineare un ultimo passaggio. Prima ho sentito parlare di un mercato riferito alla mamma. Noi siamo assolutamente d'accordo su questo, lo diceva prima Breglia. In che senso è riferito alla mamma? Riferito alla mamma, scusa. Perché le scelte vengono fatte in funzione del fatto che il figlio, ancorché esca di casa o voglia andare, ovviamente per crearsi una famiglia, voglia andare a vivere da solo, deve stare in un ambito, diciamo, di tempo, ma soprattutto di distanza, molto vicino alla famiglia d'origine. Bene, questo è un fenomeno tipicamente italiano, non esiste per esempio nel mercato americano, molto più aperto. Quindi ci sono anche condizioni differenti, perché un alloggio in locazione probabilmente nell'Interland o nella periferia di Milano ha un prezzo diverso. Sì, poi ci sono città. Anche le difficoltà di trasporto verso il centro, parte. Il lavoro che magari è in centro a Milano, non lo possiamo sapere. Però lei giustamente ha portato anche questo spunto. Purtroppo siamo in chiusura. Diletta, se è veloce, dalla provincia di Pavia, ci dia questo spunto. Buongiorno. Buongiorno. Ma guardi, io volevo semplicemente dire, io sono anch'io agente immobiliare, lavoro dal 96. Riscontro semplicemente, al di là di quanto avete già detto in trasmissione, questa cosa che comunque non tutti gli operatori del settore si sono resi in conto e comunque sono in grado di comunicare fino in fondo alla clientela, cioè ai venditori, che c'è stata una contrazione dei prezzi. Per cui cosa succede? Che comunque il discorso di prendere in vendita, in mandato in carico di vendita di immobili attualmente al di fuori del, a un prezzo che è al di fuori dei valori di mercato, secondo me dovrebbe essere sconsigliabile, no? E purtroppo ci sono molti miei colleghi che, pur di avere un portafoglio immobili diciamo numeroso, continuano a fare anche questo tipo di discorso ed è solo esclusivamente deleterio. Grazie Diletta, purtroppo devo chiudere, mi dispiace, non abbiamo più tempo. Ringrazio tutti i nostri ospiti e gli ascoltatori, in redazione Gaia Romani e Valeria Coffaro, in regia Peter Bescapè, da Valentina Furlanetto è tutto, ora il nostro GR.